nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 31 marzo, il sole in regione sorto alle 6.48 e tramonterà alle 19.35, potenza dell'ora legale. La Luna Calante, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno e buona Pasqua da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. Sta per partire una nuova campagna di depopolamento dei cinghiali in regione per contrastare il pericolo della peste suina africana. La Pasqua era tra le feste più sentite dalla gente di campagna, anche perché coincide con il rinnovarsi della natura. Districarsi nel variegato mondo dei susini, un vademecum per azzeccare le varietà ottimali. È tra le prime piante selvatiche che si possono raccogliere in primavera, l'aglio orsino, che si presta anche a svariate tecniche di conservazione. Le tecniche di coltivazione del vigneto e il loro rapporto con il vino nella rubrica dei sommelier. E per la rubrica dei fiori una scheda sulla begonia elatior, pianta che simboleggia anche gratitudine e ospitalità. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Premettendo che non c'è nessuna emergenza in corso, o meglio, che non c'è nessun focolaio di peste suina africana in regione, è all'avvio un nuovo piano di depopolamento del cinghiale in regione. Perché e come ce lo spiega il dottor Manlio Palei, che è il veterinario regionale del Friuli Venezia Giulia. Da cosa iniziamo? Noi porteremo una proposta di deliberazione la prossima settimana con il nostro piano per la regione Friuli Venezia Giulia. Il piano è subordinato alla funzione di distretti suinicoli, che sono stati individuati in regione 3. Il primo su tutti è San Daniele, per preservare naturalmente il prosciutto crudo di San Daniele, e con un centroide nel paese di San Daniele per 15 km di raggio sono interessati tutti i comuni all'interno di questo cerchio. Qui in questo distretto entro il 2024 dovremo arrivare a quota zero, zero cinghiali all'interno del territorio. Il secondo distretto suinicolo prevede dalla bassa pordenonese fino alla bassa udinese ed è stato strutturato in funzione al numero di allevamenti superiori ai 2000 capi. In questo distretto, entro il 2025, dovremmo arrivare a un cinghiale per chilometro quadrato. E il terzo distretto suinicolo individuato è quello della fascia confinaria, a 8 km dal confine, che va da Dolegna circa fino a Basovizza. E lì, entro il 2026, dovremmo arrivare a 2 cinghiali per chilometro quadrato. Qualche numero, quanti cinghiali sono stati abbattuti con il primo piano di depopolamento, quanti ne mancano e soprattutto con chi? Lo scorso anno mi sembra che siano stati abbattuti circa 4.000 cinghiali. Noi contiamo con censimenti circa 5.700-5.800 cinghiali e naturalmente il piano di abbattimento, sia quello normale di eradicazione che quello futuro, sarà sempre comunque portato avanti dai cacciatori e dai bioregolatori. Qualcuno ha parlato di esercito. No, l'esercito è stato coinvolto direttamente dalla sede centrale di Roma ai sensi di una convenzione che hanno fatto il Ministero della Difesa e il Ministero della Salute. Loro si sono resi disponibili e solo ed esclusivamente qualora non raggiungessimo il risultato nelle varie riserve avremo anche la possibilità di utilizzare sia i tiratori scelti dell'esercito, sia i droni, sia eventuali squadre di recupero carcasse. Ci ricordi quanto è pericolosa la peste suina africana, soprattutto per la popolazione suinicola? Sì, l'uomo, ribadisco, non è pericolosa, non fa niente. Il problema è un danno economico e commerciale gigantesco, perché vengono bloccate tutte le attività che riguardano l'aspetto dei suini e dei cinghiali e dei maiali. Quindi possiamo pensare noi ai nostri allevamenti con il prosciutto di San Daniele qua in Friuli Venezia Giulia, che cosa potrà succedere in un anno di blocco. Raccomandazioni per gli allevatori, che ci diceva si stanno comportando molto bene. Molto bene, in effetti, sì, perché in ultimi tempi hanno messo in atto tutte le misure di biosicurezza, no, per gli allevamenti, e le raccomandazioni sono sempre quelle, soprattutto per quanto concerne i rifiuti, i residui di carni, di animali, cinghiali, suini, che non debbano essere buttate via, devono essere buttati nei cassonetti. I rifiuti devono essere messi in maniera tale da non poter essere poi raccolti da animali selvatici. La Pasqua, come ci racconta oggi Angelo Floramo, era la festa cristiana più sentita nelle campagne, anche perché al di là di tutte le valenze religiose coincideva con il risveglio della natura, il rinnovarsi dei cicli vitali. La Settimana Santa si era consumata lentamente in un percorso simbolico carico di significati profondi che il mondo contadino viveva da millenni come la dimostrazione evidente che tutto ritorna, sempre, e che la vita e la morte altro non sono che una danza perpetua, un ciclo continuo di luce e di ombra, di dolore e di gioia. Per questo era la festa cristiana più sentita nelle campagne, anche più dello stesso tempo del Natale, perché si intrideva di una sacralità ancestrale e pagana, dal momento che la terra attendeva il suo risveglio, una resurrezione dopo i lunghi mesi invernali, proprio come il Cristo nel grembo infecondo del sepolcro. Già dalla sera del Giovedì Santo le donne di casa, come già avevano fatto le tre Marie nei racconti tramandati dai Vangeli apocrifi, le cui narrazioni erano diventate parte integrante dell'immaginario collettivo popolare, impastavano i pani e le focacce, sia dolci che salate, da portare a benedire nella notte della vigilia. Le galline avevano ripreso a fare le uova, un simbolo cosmico, potente e salvifico, tra l'altro unico cibo ammesso assieme a poco altro ancora, erbe spontanee, radicchi, polenta, per tutto il periodo quaresimale. Era necessario che tutto venisse infornato prima della celebrazione della cena Domini, con la seguente purificazione della lavanda dei piedi, perché il giorno dopo, in cui si ricordava la passione, ogni lavoro era tradizionalmente proibito, sia in casa che nei campi, dal momento in cui le campane, per luttuoso segno di rispetto, avrebbero smesso di suonare. In particolare era precetto tramandato di generazione in generazione che la terra non venisse ferita con nessun attrezzo che avesse la punta di ferro, ricordando il dolore dei chiodi, non forche, zappe, rastrelli, vanghe e aratri. Il digiuno, il giorno del venerdì e del sabato, era strettissimo. Il vino si poteva bere, probabilmente era l'unica consolazione. Anzi, se rosso, era ferma convinzione che si mutasse in sangue buono. I preti che tenevano roccoli e blessane ponevano accanto all'altare della deposizione le gabbie con gli uccelli di richiamo. Il tempio, quando il sole sciabolava dalle finestre, era tutto un gorgheggiare festoso. All'annuncio della morte in croce del figlio di Dio, i ragazzi si potevano sbizzarrire correndo per le strade del paese con il suono della cracciule che ricordava il sinistro criccare delle ossa dei morti. Nella lunga notte della vigilia, secondo l'antico rito aquileiese, nelle campagne friulane si battezzavano l'acqua e il fuoco. Si intonava un canto di lode all'ape per la cera delle candele, che salvava il mondo dalle tenebre. Il giorno dopo si consumava la Pasqua, insaporendo il cibo con il sale benedetto. Le campane avevano ripreso a scandire il tempo, annunciando la resurrezione del Cristo e la bontà delle focacce. Al di là delle incertezze lessicali, oggi il professor Raffaele Testolin ci parla di come scegliere e coltivare le susine. Ecco, cominciamo proprio con un problema lessicale. Dopo aver appurato la corretta scrittura e dizione della voce susine nella lingua friulana, sespe al singolare e sespis al plurale, secondo la Koinè, ma ho raccolto altre versioni dai dissidenti della Koinè, eccomi a parlarvi di questo interessante argomento. Quello delle susine è un mondo affascinante, ma la confusione regna sovrana. E allora, dopo aver cercato qualche anno fa di fare un po' di chiarezza, prima a me stesso e poi a voi, provo a tornare sull'argomento. Ci sono susine piccole, grosse e molto grosse, e per quanto riguarda il colore dei frutti abbiamo susine gialle, rosa, rosse, rossa può essere anche la polpa, viola, nere, con tutte le variazioni che madre natura è stata in grado di creare. Ebbene, né le dimensioni né il colore aiutano a distinguere le diverse specie e varietà botaniche, che sono molte. Se poi aggiungiamo gli ibridi prodotti dal Burbank 100 anni fa, incrociando susine cinesi e selvatici americani, diventiamo matti, perché questi ibridi si chiamano Gocce d'Oro, Santa Rosa e così via, tanto che molti sono convinti che si tratti di susine italiane. Niente di più errato. Allora provo, cercando di non far arricciare il naso agli esperti, di darvi due dritte per inquadrare questi frutti meravigliosi. Punto 1. Se avete a che fare con susine di grosse dimensioni, state certi che sono susine cino-giapponesi o ibridi più complessi, a meno che non siano frutti ovali e con la buccia blu, e allora potrebbero essere susine europee, molto apprezzate come prodotto da consumare fresco o essiccato, le famose prugne secche che zia Maria chiamava provvidenza per la capacità, diciamo con un'espressione nobile, di regolare l'organismo. Punto 2. Se i frutti sono piccoli, giochiamo in casa, e se non sono mirabolani o emoli, se non sono le vecchie mirabelle o le damaschine, tutta roba ormai abbandonata o usata solamente come portinnesti, siamo in presenza di Sua Maestà la Sespe, frutto adorato dai friulani e che l'Ersa ha provvidenzialmente raccolto nel proprio campo catalogo. Si chiamano Sespa di Clastra, Prissica, Sant'Anna di Trampus, Zimber Bianco, tanto per ricordare le più interessanti, che si consumano come frutto fresco e che possono essere distillate producendo uno slivovitz da campionato mondiale dei distillati. Mi devo fermare qui perché agli amici che mi fanno dono di qualche preziosa bottiglia di slivovitz prodotto in casa da loro, tutto legale si intende, potrebbero venire le lacrime agli occhi. Come si rapporta un vino alle tecniche di coltivazione del vigneto dove viene prodotto? Ce lo spiega oggi Vladimiro Tulisso per la rubrica dei sommelier. Il vino buono ha alcune qualità. È digeribile, ha un rapporto con il cibo del luogo dove è tradizionalmente prodotto ed esprime alcune caratteristiche legate alla zona di produzione. Di un vino con questo carattere diremo che è un terroir. Chi produce vino sceglie un metodo produttivo che è condizionato da molti fattori: il terreno, il clima, la sua esperienza, la richiesta del mercato. Propongo una sintesi delle diverse opzioni per guidarci nel mondo della nostra bevanda preferita. Viticoltura convenzionale è una coltivazione che, rispettando i limiti di legge, utilizza additivi sintetici come erbicidi e pesticidi. Dopo la vendemmia il terreno può venire arricchito con azoto e il vigneto è spesso impostato per favorire le lavorazioni meccaniche. C'è poi la viticoltura sostenibile, detta anche lotta integrata. Significa coltivare cercando di utilizzare tecniche poco invasive, cercando prodotti di origine naturale e mezzi biologici per il controllo dei parassiti. Arrivata con la cultura hippie degli anni 70, incontriamo la cosiddetta viticoltura biologica, che si affida a fertilizzanti di origine animale, vegetale o minerale. Anche i pesticidi sono di origine naturale e la poltiglia brodolese, il solfato di rame misto a calce, è l'unica protezione dalle muffe. Quando alla viticoltura biologica si unisce una visione, diciamo, spirituale del rapporto tra uomo, pianta e natura, incontriamo la biodinamica. Ideata dal filosofo Rudolf Steiner, vissuto a cavallo tra 1800 e 900, adatta ai ritmi della coltivazione osservando le costellazioni e le fasi lunari, e si fonda su 9 trattamenti di origine animale, vegetale e minerale che sarebbe lungo qui descrivere. Infine la viticoltura naturale, una sorta di autogestione lasciata al vigneto cercando un equilibrio tra piante, insetti e altri animali, così che l'ecosistema si curi, diciamo, da sé. Un'agricoltura del non fare esposta al rischio di perdere intere annate di produzione. Fare un vino di terroir è prerogativa solo dei vignaioli naturali? Ovviamente no. Esistono vini naturali di pessima qualità e vini convenzionali di ottima fattura. Assaggiare per scegliere. L'aglio orsino è tra le prime erbe selvatiche che crescono in primavera. Ultimamente è stata molto valorizzata e oggi Michela Urbano ci offre una serie di suggerimenti per la sua conservazione ottimale. Con la Pasqua si entra ufficialmente, tempo permettendo, nella stagione dedicata alla vita all'aria aperta, ai picnic e alla raccolta delle piante alimurgiche. Raccogliere erbe selvatiche, bacche, fiori o tuberi nel bel mezzo di un prato o nel silenzio apparente di un bosco è senz'altro una bella sensazione, ma è fondamentale saper distinguere con certezza assoluta ogni singolo esemplare che si raccoglie, onde evitare intossicazioni o avvelenamenti. Confondere l'aglio orsino con il mughetto può risultare mortale quanto confondere le sue foglie con quelle del colchito. Ho deciso di prendere l'aglio orsino come simbolo di rinascita perché è tra le prime erbe vagabonde disponibili. Tappezzante dal colore verde brillante, ama le aree boschive e suoli umidi. Come tutti gli agli, presenta una guaina protettiva attorno alle foglie che escono dal bulbo. Ha un picciolo lungo, foglia lanceolata con apice appuntito e profuma d'aglio. Poliedrico in cucina. Lucia Pertolte, grande estimatrice dell'aglio orsino, da questi microfoni alcuni anni fa indicò un ampio ventaglio di proposte culinarie che potrete ritrovare nel suo libro Mamma Moia. L'aglio orsino ben lavato ed asciugato si presta molto bene anche alla conservazione. Essiccato diventa una carta vincente per personalizzare qualunque piatto all'ultimo momento. Surgelato in purezza è l'ingrediente fondamentale per aromatizzare torte salate e frittate. In questo modo si mantiene bene fino alla raccolta dell'anno successivo. Frullato assieme al burro e conservato in comode monoporzioni in congelatore è ideale per mantecare risotti di pesce e profumare gli scampi alla brace. E cosa dire del suo olio aromatizzato? Per realizzarlo vi basterà frullare 100 g di aglio orsino con pari peso di buon olio ad alta velocità per alcuni minuti, fin tanto da scaldarlo. Filtrarlo attraverso una garza a maglie fine e utilizzarlo a piacere. Si conserva in frigorifero per un paio di settimane. È delizioso sulla focaccia con formaggio salato appena sfornata. Vi lascio la ricetta sulla pagina Facebook di Vita nei Campi. In conclusione, rinnovo il mio invito a prestare molta attenzione a ciò che si raccoglie e ricordiamoci che le erbe spontanee sono frutto di una selezione naturale, sono una risorsa importante e un bene comune. Raccogliamole rispettando la natura. La begonia, nella sua versione elatio, tra le sue valenze anche quelle simboliche di gratitudine e ospitalità. Un regalo azzeccato in questi giorni di festa, come ci dice nella rubrica dei fiori Alessandro Squizzato. La begonia elatio, pianta tuberosa succulenta, a portamento cespuglioso di origine tropicale, appartiene alla famiglia delle begoniacee. La pianta della begonia ha foglie carnose, ricche d'acqua, lucide e di colore verde intenso, con uno stelo eretto e rigido, su cui si formano graziosi boccioli e fiori molto grandi, che possono essere semplici o doppi, di vari colori come rosso, giallo, arancione, rosa, bianco, bicolori e lungamente rifiorenti. Raggiunge in media i 50 cm di altezza. Questa particolare specie fiorisce in modo prolungato da maggio a settembre, anche se in annate calde può fiorire anche a novembre inoltrato. La coltivazione della begonia elatior avviene soprattutto in vaso, essendo una pianta che soffre particolarmente le temperature basse. La temperatura ideale per una buona crescita e mantenimento della pianta è di circa 20 gradi, soprattutto dopo l'invasatura, per favorire lo sviluppo delle radici. Il rinvaso dovrà essere eseguito gradualmente, di anno in anno, utilizzando del terriccio grossolano per piante da fiore, che consenta un buon drenaggio, e aumentando di poco la taglia del vaso, dal momento che l'apparato radicale della specie soffre dei ristagni idrici. Accertiamoci che il terreno sia quasi asciutto tra un'irrigazione e l'altra, e non lasciamo mai l'acqua nel sottovaso. La begonia elatior si adatta molto bene alla coltivazione all'interno della casa, ma richiede ambienti molto luminosi per vegetare e fiorire abbondantemente. La luce dovrà essere indiretta, perché il sole provoca ustioni a questa pianta, che si manifestano con macchie marroncino bruno sulle foglie. Potete porre la begonia elatior anche all'esterno, in primavera e estate ovviamente, ma in un luogo a mezz'ombra. L'ideale è la luce del mattino o del pomeriggio. Simbolo di simpatia e di cordialità, questa begonia viene spesso regalata in occasione di cene o di eventi particolari, come simbolo di gratitudine per l'ospitalità. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi in rialzo, ben sostenuta la soia. Venerdì scorso, nelle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 19,70 e 19,90 euro il quintale, IVA esclusa. il frumento tra 19,70 20 e 20, l'orzo peso specifico 62,65 tra 18,50 19 euro e la soia tra 44,50 e 45 euro il quintale. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 6 euro il quintale e la soia di 5. Buone le contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi stabili. L'insalata gentile, la lattuga Trocadero e i finocchi vengono quotati da 0,80 a 1 euro il chilo IVA esclusa. La scarola riccia da 2,80 a 3 euro, i cavoli tra 1 e 1,30 e la ricca rosso tondo e quello precoce di Treviso tra 1,80 a 2 euro e le fragole italiane da 4 a 5,50 euro il chilo. Nel comparto dei prodotti caseari, la Commissione Camerali Pordenone Udine ha recentemente determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli-Venezia Giulia, quotandolo tra 48,50 e 50,50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, nel comparto degli avicunicoli, migliora il quadro congiunturale, i poli a terra vengono quotati da 1,08 a 1,12 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,20 a 3,30, i tacchini maschi da 1,58 a 1,60, i conigli oltre 2,5 kg da 2,34 a 2,40, le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono 21 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Francesco Sioni diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante. Visto l'interesse verso le situazioni meteorologiche di oggi e domani, andiamo a guardare con dettaglio le previsioni. Una depressione presente sull'Europa occidentale continua ad inviare correnti umide da sud verso la nostra regione, motivo per cui la giornata di Pasqua di oggi proseguirà con cielo del nuvoloso coperto. Nelle prossime ore la regione sarà interessata da precipitazioni, ma che saranno sparse e intermittenti. Questo significa che, specie su pianura e costa, ci sarà comunque spazio per delle schiarite e per delle lunghe pause senza piogge. In generale, se guardiamo ai cumulati complessivi oggi, sono attese piogge in genere abbondanti sulla zona montana, con quota neve a 2000 metri circa, ma con precipitazioni che su Alpi e Prealpi Carniche potranno essere anche localmente intense, con lo scirocco che porterà umidità proprio su queste zone. Sulla pianura le piogge saranno più moderate, mentre per quanto riguarda la costa risulteranno deboli se non del tutto assenti. Tra Pasqua e Pasquetta avremo il passaggio di un fronte freddo. A Pasquetta quindi fino al pomeriggio il cielo sarà da nuvoloso coperto, con precipitazioni che sulla zona montana saranno in genere intense e diffuse, con quota neve a 2000 metri. Su pianura e costa invece le piogge saranno più sparse e intermittenti. Durante tutto il corso della giornata sono attese piogge abbondanti sulla pianura, da deboli a moderate invece sulla costa. A partire dal pomeriggio sera avremo il passaggio del fronte che porterà a rovescio temporali sparsi. In seguito saranno possibili però le prime schiarite a partire da ovest. Tuttavia, con l'ingresso dell'aria fredda in quota, rimarranno comunque anche in serata le condizioni per rovescio temporali sparsi sulla regione. Per quanto riguarda invece i venti, a Pasquetta sulla costa soffierà scirocco con raffiche anche sostenute e in quota invece soffierà vento da sud con raffiche anche forti. La tendenza per martedì e mercoledì vede variabilità e l'ingresso di alcune piccole perturbazioni in quota accompagnate da aria più fredda, che determineranno instabilità con temporali o rovesci pomeridiani. Da giovedì in poi sentiremo l'influenza invece di un anticiclone, che si affermerà sulla regione. Da giovedì a domenica quindi per ora non sono attese precipitazioni e le temperature dovrebbero essere in aumento. Vista tuttavia la dinamicità della situazione meteorologica, anche per quanto riguarda la giornata di Pasquetta, le previsioni risultano in parte incerte e perciò raccomandiamo fortemente di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Pasque marciole o fanno muriole, ovvero Pasqua di marzo o fame o moria di bestiame per mancanza di foraggio. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima con l'augurio di una buona Pasqua. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.